1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci, cari ascoltatori, siamo qui, sono le 7:20 minuti. Ci siamo allora pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo ancora di migranti, di Unione Europea. Oh, ma niente, ci vogliono mettere la multa, mettere la multa agli stati che si rifiutano di prendere i migranti. 250.000 euro a migrante rifiutato dagli stati. Questo vuole mettere l'Unione Europea. E poi c'è l'ipotesi sempre di finanziare con 50 euro di tassa a coloro che arrivano per turismo o lavoro nell'Unione Europea il Migration Compact cosiddetto, cioè il piano proposto dall'Italia per aiutare i paesi da cui partono i migranti. Vabbè, parleremo di questo, ma intanto andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ebbene sì, in questo giovedì 5 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su Padoan, 3 anni in meno per il recupero crediti, così il ministro dell'economia al Senato. Sulla questione economica, ma più l'annuncio di Renzi e anche l'apertura del Corriere della Sera, pensioni flessibili nel 2017, l'annuncio di Renzi. E poi ancora, giudici e PD, alta tensione sugli arresti, così Repubblica. Manette facili, bufera, CSM, così apre il giorno. Per la stampa, l'offensiva di Renzi su tasse e pensioni, lodi PD contro i PM. La stampa dunque mette tutto insieme. Mentre il Fatto Quotidiano, lodi il sindaco PD confessa e il PD processa i magistrati. Per il Messaggero, pensione anticipata con penalità. Mentre Libero, Renzi dà il bonus anche agli immigrati. Anche per il Giornale, le pensioni in primo piano, pensioni tutto rimandato. Questo è il titolo di prima pagina. Va bene, io però voglio partire da questa storia che riguarda un collega, un giornalista, di cui abbiamo sentito anche nel giornale radio, Pino Magnaci, direttore di Teleiato, che si è scoperto, almeno da alcune intercettazioni, un'inchiesta che lo riguarda, rischia di trasformare, vedere trasformata la sua immagine da icona antimafia a uno che brigava intanto per ottenere dei soldi da alcuni sindaci, accusato di estorsione ai sindaci. Mi faccio dare 400 euro, sono una potenza. L'idea era, come dire, minacciare attraverso la TV di dire cose scomode e in cambio, per ritorsione, farsi dare dei soldi. E poi c'è anche questa vicenda dei due cani che si è ritrovato ammazzati, e questo è sicuramente una tragedia, ma quando si è trovato i cani ammazzati, lui chiama quella che viene considerata la sua amante e dice e fa capire che, insomma, è stato il marito dell'amante ad ammazzarli, ma farà passare tutto come una minaccia della mafia per farsi dare la scorta. Insomma, la vicenda è molto molto triste, oltre che dolorosa. Giancarlo Caselli, ex procuratore capo a Palermo, sul Fatto Quotidiano, in qualche modo incredulo, lo difende. Dice: l'ho incontrato alcune volte, Magnaci, e devo sinceramente dire che mi era sembrato una persona per bene e coraggiosa. Sembrava un giornalista controcorrente, mestiere che ovunque, ma in modo particolarissimo in Sicilia, è rischioso. Ora sono notizie che mi sconcertano, mi fanno molto male, una delusione infinita. E anche Attilio Bolzoni su Repubblica scrive: il mondo capovolto del telepredicatore, questo a pagina 17 di Repubblica, perché insomma è dal giorno della civetta, libro scritto da Sciascia, il maestro di Racalmuto nel 61, nelle cui pagine per la prima volta si narra come un delitto di mafia, per volere della stessa mafia, venga poi contrabbandato come una storia di femmine di corna, cioè si capovolge. E con la divulgazione delle intercettazioni dei filmati che sembrano incastrare Magnaci, siamo davanti al mondo capovolto che annulla il ragionamento di Sciascia, perché il telepredicatore di Partinico ha messo sotto sopra tutto, ha utilizzato una storia di corna e di femmine per riportarlo al contrario, alla ricerca di un movente di mafia. Lo sapeva che i cani gliele aveva fatti uccidere il marito geloso della sua amante, ma ha scelto con accurato calcolo di dare la colpa ai boss, a Cosa Nostra, alla cupola, alla mafia della cocaina. È il segno dei tempi. Insomma, questo ribaltamento. Anche se, a mio modo di vedere, l'accusa più grave è quella di aver estorto denaro, se provata. Ma anche Massimo Gramellini, in prima pagina della Stampa, oggi parla in qualche modo di icone rovesciate. Certo, Magnaci, che veniva esposto in tutte le televisioni come madonnina infilzata dell'antimafia, ci aveva fatto credere che i suoi poveri cani fossero stati sgozzati da Cosa Nostra, invece il dog killer era stato il marito della sua amante. Ma poi aggiunge questo Gramellini: la bandiera che ci addolora di più ammainare è un'altra. È Rosaria Aprea, ve la ricordate, la Miss Campana, su cui tanti, sottoscritto compreso, si esibirono in pistolotti edificanti quando, grazie alla denuncia, il fidanzato Buzzurro, che le aveva spappolato la milza a calci, finì in galera. Secondo la procura, questa meravigliosa creatura, elevata simbolo della lotta alla violenza contro le donne, avrebbe tentato di investire con la macchina un altro ex che l'ha denunciata per stalking. Ma come? Proprio lei? Il suo avvocato sostiene che si tratta di un equivoco. L'ex si è visto arrivare addosso a forte velocità un'auto guidata da una donna che lo detesta e si è buttato di lato pensando che Lerinni volesse asfaltarlo. In effetti nessuno può escludere che intendesse inchiodare all'ultimo centimetro, però nei panni dell'ex qualche perplessità sulla tenuta dei freni e sul buon cuore della Miss l'avremmo avuta anche noi. Insomma, come dire, icone che devono essere riregistrate o bandiere che devono essere ammainate. Ammaina bandiera, infatti, è il titolo del commento di Massimo Gramellini. Mentre, che devo dire, c'è una foto che circola, io l'ho messa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, la trovate, di un prete, si chiama Don Giordano De Luigi, sanguinante, il volto tumefatto e sanguinante. L'ha postata lui stesso questa foto e ha denunciato: così mi ha picchiato un altro prete. Succede? Cosa ridi, Peter? Succede? Sono uomini con i loro istinti anche loro. Marco Menduni racconta questa storia nel seminario di Albenga in provincia di Savona, dove due preti, pare per motivi del furto di un portafogli, qualcuno dice, se le sono date di santa ragione. Questo dice chi ha picchiato 100 chili, Don Ettore Barbieri. Chi invece ha subito, Don Giordano De Luigi, più gracile, 71 anni, mentre il picchiatore è 45, quindi più forzuto. Colui che invece ha subito i colpi, ha esibito il suo volto tumefatto e sanguinante sui social network, dice: mi ha massacrato di botte perché mi vogliono cacciare dalla mia stanza, che pago 600 euro al mese col vitto, per relegarmi in un bugigattolo e affittare la mia stanza facendo business. Insomma, questione di soldi, questione di liti, questione di forse di portafogli, non si sa. Sta di fatto un tranquillo seminario di paura, racconta Marco Menduni sul Secolo XIX, botte da orbi tra preti. Vabbè. Sapete quante sono le operazioni l'anno? Qualche giorno fa è uscita la notizia di un'operazione sbagliata, è stato tolto il rene sano a un paziente, un errore clamoroso. Eppure, sapete quante sono queste operazioni che si concludono così? Cioè si opera l'arto sbagliato, si toglie l'organo sbagliato, si interviene, insomma, in quelli che vengono definiti errori di lato. D'altronde abbiamo due braccia, voglio dire, abbiamo due gambe, abbiamo due organi, in alcuni casi di organi. 80 casi l'anno, 80 operazioni l'anno su organi e arti sbagliati. All'inchiesta di Repubblica Michele Bocci, che dice, parte dal vecchio caro pennarello, ma io li vedo infatti a volte nelle operazioni, capitato, familiare, eccetera, basta usare il pennarello, no? Un bel pennarellone, questo è l'arto da operare, una bella X, il vecchio metodo. E infatti Michele Bocci scrive: a volte basterebbe un pennarello nero, lo dicono anche gli esperti nell'era della medicina super tecnologica, dei macchinari sofisticati, le procedure blindate, avrebbe senso ricordarsi di fare un segno inchiostro sul corpo del paziente prima di entrare in sala operatoria. Si eviterebbe così di intervenire sul ginocchio sbagliato, di intervenire sul rene sano, di preparare la protesi per la spalla che funziona, insomma commettere uno degli 80 gravi errori di lato, li chiamano proprio così, registrati ogni anno in Italia su 8 milioni di interventi. Statisticamente, per carità, non sono tanti 80 su 8 milioni, però capite che è un errore legato a una banalità, una distrazione clamorosa, insomma, quindi basterebbe un segno d'inchiostro per quasi annullarli questo tipo di errori. Comunque, Repubblica dedica due pagine a questa inchiesta sulla mala sanità. Mentre, eccoci qui, siamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata. Rinaldo Frignani racconta questa storia che solo a leggerla nel titolo è molto dolorosa. Pagina 23. Sconta la pena per pedofilia. 7 anni. Detenuto modello a Regina Coeli. Esce e abusa di una bimba di 9 anni. Ovviamente è stato riarrestato. Ex insegnante di sostegno di 45 anni. Falso istruttore di ginnastica artistica. Arrestato di nuovo dalla polizia dopo aver scontato questa pena, ripeto, carcere, buona condotta, detenuto modello, per abusi su una bambina di 9 anni. E la procura lo accusa anche di avere tentato violenza a una ragazzina di 15 anni durante un finto massaggio. Ma forse sarebbero, questo è il sospetto, altre anche le violenze su cui si indaga e potrebbe aver abusato di altre bambine. Non so cosa devo dire. Niente. Non è possibile una roba del genere. Vergognatevi, cazzo. Alessandro Milan, l'usule, l'umare, l'ugentu dell'informazione. E addirittura mandate le vostre sigle al 349-238 6666 è il numero WhatsApp. Allora, cari ascoltatori, devo dire che questo argomento a me annoia alquanto, cioè le liti della politica sugli arresti, la questione giustizia, proprio una roba ma talmente noiosa perché ce la portiamo avanti da 20 anni, da 25 anni, a quel non so, quel sentito di vecchio, no? Ma quella sensazione quando leggi queste cose, questa l'ho già sentita negli ultimi 25 anni. Vabbè, comunque c'è la nuova tensione, come raccontano i giornali, giustamente, a livello politico, perché soprattutto da quando il consigliere del CSM Fanfani, eletto in area PD, ha praticamente dichiarato che l'arresto del sindaco di Lodi Uggetti è un arresto sbagliato. È un dovere dire che un magistrato sbaglia. Apriti cielo, scontro al CSM sull'arresto di Lodi. Per la verità, in mattinata Renzi aveva già detto un complotto della magistratura, ma de che? Quindi in qualche modo aveva smussato un po' i toni, però ci ha pensato appunto il Dem Fanfani a rialzarli. Poi in qualche modo c'è stata la retromarcia, anche perché, come racconta Repubblica con Liana Milella a pagina 3, mai una tensione così alta si era registrata a Palazzo dei Marescialli, cioè la sede del CSM. Giovanni Legnini, vicepresidente, è andato da Fanfani e racconta Repubblica, furibondo gli ha detto: hai sbagliato e hai sbagliato di grosso, ti stimo, lo sai, ti sono anche amico, ma questa tua richiesta è pazzesca, del tutto irricevibile, te lo dico con assoluta chiarezza, se ti ostini nel comitato di presidenza sarò costretto a fermare la tua richiesta, perché voleva far passare un documento appunto in cui si definiva l'arresto ingiustificato e comunque eccessivo. Comunque, questo lo scontro. In tutto questo, lo sfogo del sindaco in carcere. Io ho dovuto leggere questo titolo, devo dire, una decina di volte, perché Uggetti, raccontano i giornali, leggo per esempio dall'articolo di Cesare Giuzzi a pagina 5 del Corriere della Sera, Uggetti ammette di questi due appalti truccati per le piscine di Lodi a favore della società amica Sporting Lodi. E perché ho dovuto leggere il titolo 7 volte? Perché sentite qui, ammette, il sindaco ammette, ma ho agito per il bene della città. Ah, ma, cioè, non veramente ho fatto fatica e continuo a far fatica a collegare le due cose, cioè ammettere un'eventuale turbativa d'asta nell'appalto e poi dire ho agito per il bene della città. Ecco, non capisco perché un'ipotesi di reato possa essere il bene della città, ma forse le due cose non sono collegate, non lo so. Comunque questo è il concetto che esce. Tra l'altro il Fatto Quotidiano fa notare, insiste e lega questa vicenda come altre vicende giudiziarie alla prossima riforma costituzionale sulla quale gli italiani dovranno esprimersi, ormai lo sapete, con un referendum a ottobre, comunque in autunno, perché il Fatto Quotidiano mette l'elenco di tutti gli indagati, in questo caso anche il sindaco di Lodi, che potrebbero finire nel nuovo Senato, definito il Senato alla Boschi. Arrestati, imputati, indagati, sindaci, consiglieri regionali, governatori, tutti pronti per Palazzo Madama dopo il referendum. Pagina 4 c'è il dossier con l'elenco di decine e decine di posizioni giudiziarie da vagliare che potrebbero finire in Senato. Vabbè, questo è quel che riguarda la politica. Mentre detto, noi ci concentreremo ancora sui migranti e ai migranti devo dire che è dedicata una buona parte dei giornali, perché come scrive Beda Romano, Bruxelles le multe a chi rifiuta i migranti. Allora, ieri era stato anticipato e oggi è confermato dai giornali il piano per cambiare da parte dell'Unione Europea la regola di Dublino prevede questo, sentite Beda Romano a pagina 8. Nel caso in cui in un paese si registri un balzo dei rifugiati in arrivo superiore al 150% di uno specifico criterio di riferimento, vi sarà il ricollocamento delle persone, cioè redistribuzione negli altri paesi. Il paese che si rifiuterà e chiederà la sospensione di tutto ciò dovrà versare 250.000 euro per ogni rifugiato non accolto. Oh, non so, uno si rifiuta di accogliere 1.000 migranti, sono 250.000 euro per 1.000. Io con gli zeri non vado d'accordo, quindi fatemi voi il calcolo in presa diretta, per favore. Ovviamente... le rivolte, pagina 6 di Repubblica, i paesi dell'est contro l'Unione Europea, contro questa decisione dell'Unione Europea, perché un governo potrà, invocando motivi straordinari, rifiutare di accogliere i richiedenti, ma dovrà pagare 250.000 euro. Resta sul tavolo anche l'altra ipotesi, quella di una tassa da 50 euro per coloro che entrano per motivi di lavoro o motivi di turismo nell'Unione Europea e con questi 50 euro a cranio finanziare il Migration Compact e quindi questo piano di sostegno ai paesi africani proposto dall'Italia. E anche qui Fiorenza Sarzanini, che ieri ne parlava sul Corriere, torna a scriverne. Tra l'altro Fiorenza Sarzanini oggi a pagina 13 racconta un dato impressionante: il flop del piano sui rifugiati. Sapete quanti dei 40.000 richiedenti asilo hanno lasciato l'Italia per altri paesi? Vi ricordate che avevano detto li ridistribuiscono 1.000 di qua, 1.500 di qua, 1.000 di qua? 40.000 in Italia. Sapete di questi quanti sono stati ridistribuiti? 564. Sapete quanti ne ha accolti la Germania, paese che aveva aperto a tutti i migranti, eccetera, su 40.000 richiedenti asilo? 20. La brava Germania, 20! La Germania ne ha presi solo 20. Un flop il piano dei rifugiati. Questo è il titolo di pagina 13 del Corriere della Sera. A proposito di rifugiati, parla a Repubblica, intervistato da Tonia Mastrobuoni, Heinz Christian Strache, è il leader del partito della destra austriaca che è favorito al ballottaggio per le presidenziali con il candidato Hofer. E dice: l'Austria deve proteggersi, vogliamo un Tirolo di nuovo unito e l'Austria si deve proteggere da Matteo Renzi, da Angela Merkel, che sono scafisti di Stato. Ci dobbiamo proteggere. Questo è il succo dell'intervista di una pagina che trovate a pagina 7 di Repubblica. Sempre a proposito di migranti, Libero mette in primo piano e in prima pagina con l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro la notizia che ci sarà molto probabilmente, perché c'è un emendamento del governo, l'estensione del piano 500 euro per la cultura. Ricordate, ai diciottenni i 500 euro arriveranno adesso con le elezioni, arriveranno, non vi preoccupate. Ebbene, l'estensione anche agli extracomunitari che hanno solo il permesso di soggiorno. Diamo il bonus pure agli stranieri. Prima pagina di Libero, Belpietro è polemico dicendo sarà sufficiente che il familiare garantisca per il congiunto, il gioco sarà fatto, in pratica verrà dato il 500 euro di bonus non solo ai figli di italiani o cittadini francesi, inglesi, ma anche agli stranieri con permesso di soggiorno in corso. Ale, caro Mauro Meazza, come vedi ti ho ben separato da inquisiti, indagati, condannati, processati. Eccoci qua. Buongiorno, allora innanzitutto molto bene, mi congratulerò con il mio avvocato, le cui rimostranze evidentemente hanno avuto un buon esito. Io oggi ti vorrei parlare dell'ape. Sì. Arriva l'ape. Non è un modo da milanese di dire aperitivo. A Milano si dice facciamoci un'ape. Però qui invece sarebbe la possibilità di anticipare la pensione con una decurtazione della medesima. E spieghiamo tutto sul Sole 24 Ore, ma oggi ti inviterei proprio a meditare sulle pagine 6 e 7 del Sole 24 Ore, perché oltre a questo possibile anticipo della pensione si spunta anche l'IRI, che l'IRI nel senso di non imposta è l'IRI, non è l'IRI, no, non è l'IRI, no. Quell'IRI là, no, perché si capisce più niente, no. E bisogna stare aggiornati con le sigle, caro Milan. Allora, APE per la pensione, sì. IRI come una imposta sul reddito dell'imprenditore che servirà, perché sono proposte, sono ipotesi che si stanno discutendo, a ridurre il prelievo su quegli imprenditori per le piccole imprese che lasciano gli utili in azienda. Quindi questo pensionati IRI, vi regaleranno IRI l'ape, non è una moto neanche, non è un motorino. No, non è neanche l'ape. Poi invece la per moto. I voucher, sai che c'è stata un po' di polemica su possibili abusi dei voucher, sì. Quelli per piccoli lavori, ecco, si pensa di intervenire con inserendo la possibilità di un SMS o di una email appena prima del lavoro medesimo. Ma trovi tutto, ripeto, tra la pagina 6 e la pagina 7 di oggi, già, come dire, pagano il biglietto, si diceva una volta. Ecco, già queste pagine sono le 24 ore di oggi. Oh, poi ti ricordo che oggi, essendo giovedì, c'è anche Casa 24. Molto bene. Laddove parliamo, tra le altre cose, anche di affitto breve, delle possibilità di, come dire, incassare dagli affitti brevi anche con questi meccanismi online, queste app, non le ape, le app diffuse, e anche degli obblighi di legge, naturalmente. E a proposito di legge, tu leggerai anche oggi norme e tributi religiosamente. Bravissimo, perché ti parliamo in dettaglio del pegno non possessorio. Guarda che è un cambiamento molto importante per il diritto nazionale e sta nel decreto legge che è appunto andato in gazzetta ufficiale 2 giorni fa, quindi una cosuccia sul tamburo, come si dice, che viene illustrata appunto a norme e tributi. Vorrei tornare dove sono partito, cioè dall'ape, sì. Perché ci sono già delle possibilità. Per dire che c'è traffico, scusa. Questa battuta non mi era venuta in mente, ma forse è un bene in realtà. Esatto. Perché vorrei dirti che ci sono già delle possibilità di anticipare la pensione, esistono, per alcuni casi, li trattiamo in dettaglio proprio nelle pagine di norme e tributi. Alessandro Milan di Brocchi dell'informazione. E Ale, va bene, dai, questa l'ho sentita anche abbastanza spesso. Allora, è talmente raro raccontare quello che succede in Corea del Nord che vi voglio segnalare la pagina di Guido Santevecchi a pagina 17 del Corriere della Sera, perché è un racconto da Pyongyang. Nel senso che la Corea del Nord, visto che domani si riunirà a congresso il Partito dei Lavoratori, non succede da 36 anni e tutti si chiedono che cosa annuncerà il leader Kim Jong-un, forse addirittura annuncerà che la Corea è diventata una potenza nucleare, questo è il timore del mondo. Comunque, in occasione di questa ricorrenza, la Corea del Nord ha timidamente aperto ad alcuni giornalisti, in teoria non si può andare da giornalisti, si può solo intrufolare, insomma, ha aperto ad alcuni giornalisti le porte. E Guido Santevecchi fa un racconto abbastanza surreale, dalla partenza con la compagnia di bandiera locale Air Koryo, la peggiore del mondo, classificata in tutte le classifiche specializzate, con un bimotore che decolla in perfetto orario da Pechino e a bordo del quale, se vi piacciono molto le Moranbong, banda pop di 10 ragazze selezionate personalmente di Kim Jong-un, beh, andrete allora bene a bordo dell'Air Koryo, perché a un certo punto partono i filmati delle Moranbong, solo che in aereo non ci sono le cuffie e quindi nel tentativo di sovrastare il rumore dei motori l'audio viene trasmesso a tutto volume in cabina per chi vuole, ma anche per chi non vuole ascoltare. E poi l'arrivo all'aeroporto, ogni giornalista preso da un funzionario del partito, il giovane che mi segue parla un buon italiano, d'altronde l'aveva perfezionato vedendo La vita è bella di Benigni. E racconta a Santevecchi: c'è un vago senso di accerchiamento. Non è permesso muoversi da soli. Siamo in un albergone su un'isola del fiume Taedong, spostamenti solo in gruppo. Al braccio ci fanno mettere una fascia con scritto stampa in coreano per renderci ancora più individuabili e dunque evitabili da parte dei cittadini. E ci portano prima in giro a vedere una fattoria, dove non ci sono macchinari ma solo buoi stanchi che trascinano carretti e tutto il lavoro sembra ancora braccia in una terra fangosa. Qui mi raccontano che la guida Kim Il-sung è stata a visitare 16 volte, Kim Jong-il 4 volte, Kim Jong-un, rispettato maresciallo, già 2 volte e ha ordinato di aumentare la produzione di verdura. Insomma, un viaggio davvero surreale, qualche supermercato dove ci sono anche in vendita i vini dei castelli romani e il racconto del paese più chiuso al mondo dal di dentro, anche se con uno sguardo ben controllato, diciamo così. Vabbè, la politica delle amministrative ve la risparmio per un giorno, qualche cosa di cronaca. Intanto oggi, cari tassisti milanesi, vi ho pensato molto oggi, cosa che mi succede rarissimamente. Avevo bisogno del taxi alle 5 del mattino, sciopero. Vi ho pensato molto, non lo so, avrete le vostre ragioni e so che ci seguite anche molto, siete appassionati, vi vogliamo bene, io vi voglio bene, però insomma vi ho pensato intensamente oggi, ma succede sempre così, quando uno ha bisogno di una cosa e non la trova. Comunque, i taxi contro Uber, sciopero selvaggio a Milano. Anche questo è un gran classico, non c'è tempo per approfondire le ragioni eccetera, ma certo vi siete guadagnati qualche paginata sui giornali e anche qualche mio pensiero mattutino. Allora, succede questo, cronaca, pagina 12 del Messaggero, mi ha colpito, non ho un giudizio ma ve la giro a voi: docente bacia l'allieva di 13 anni condannato a 4 anni di carcere, 3 anni 8 mesi per la verità. Succede a Roma, dove una ragazzina di 13 anni si era innamorata dell'insegnante, era consenziente, ma ha 13 anni, quindi tenete insieme le due cose. Sarai tu il primo, diceva lei al docente. Sono stati beccati dal fratellino di lei, che ha detto tutto, e questo docente è stato condannato a 3 anni e 8 mesi per atti sessuali a danno di una ragazzina di 13 anni. Pagina 12 del Messaggero, lo trovate lì. Mentre, che dire della carta costa? L'articolo più inutile scovato sui giornali. Una pagina del Corriere della Sera. Chiara Maffioletti racconta il nuovo format televisivo. Devo aver visto anche io una pubblicità e mi sono un po' inquietato. Ho detto, ma come? Com'è possibile? Il matrimonio al buio. Nasce un format televisivo in cui un sessuologo, una sessuologa per la verità, un sociologo, uno psicoterapeuta mettono insieme delle coppie che non si sono mai viste e alla fine del format televisivo si vede se dal buio, senza conoscersi, si sposano. Insomma, matrimonio al buio. E questa domanda di una pagina sul Corriere della Sera: ma sposare davvero uno sconosciuto è una cosa fattibile, possibile? Ma chi se ne frega!